Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, nonché varie amenità sul web dove potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal sito della radio, appunto radiocittafujiko.it. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 si preoccupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di ogni genere, di ogni epoca, ma sempre musica ufficiale, nel senso niente bootlegs a meno che proprio non siano cose trascendentali. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, anche oggi ce n'è una che vi proporrò, che è questa la quale sto per spiegare. Oggi è di scena un personaggio non molto conosciuto alle nostre parti, oserei dire assolutamente sconosciuto, ma c'è sempre qualcuno che ne sa a pacchi, e magari questo qualcuno conosce un armonicista cantante che si chiama John Nemeth, insieme alla sua band che si chiama Blue Dreamers. John Nemeth arriva da Boise nell'Idaho ed è attivo in giro fin dal 1990, ha avuto molte band di accompagnamento, chiamiamole così, e l'ultima appunto quella con i Blue Dreamers, con la quale ha firmato questo nuovo album che si chiama Live from the Fallout Shelter, Celebrating 20 Years, cioè dal vivo al Fallout Shelter, che è un locale del quale parleremo dopo, e celebrando 20 anni di carriera. In 20 anni il buon John Nemeth ha fatto 3 album live, questo è il terzo appunto, l'ultimo, e recentemente però ha avuto molti problemi di salute. Vi leggo quello che dice. Quello che dice a un certo punto: io sono sopravvissuto a 3 mesi di polmonite, 5 mesi di artrite, di quelle che fa zoppicare, 3.000 bottiglie di whisky, 100 pounds di erba, non quella medica chiaramente, 2 milioni di miglia sulla strada e oltre 2.500 concerti. E in più, anche giusto per gradire, l'amputazione della mascella, che è stata debitamente ricostruita, altrimenti non potrebbe suonare l'armonica, perché aveva appunto un tumore osseo alla mascella. Malgrado ciò, continua a suonare in giro per gli Stati Uniti più che per il mondo, e questa registrazione appunto è stata effettuata il 16 aprile del 2022, per la cronaca era un sabato, è al Fallout Shelter, che è una concert hall che è stata costruita in un vecchio mulino, un mulino di oltre 250 anni, che per gli Stati Uniti è un periodo incredibile, in quel di Norwood, un sobborgo a sud-est di Boston, Massachusetts naturalmente. Loro hanno una serie, chiamiamola così, che si chiama Extended Play Sessions, che viene irradiata via Facebook e su YouTube fin dal 2007. A questa rassegna ha partecipato appunto John Nemeth con i suoi Blue Dreamers e hanno inciso questo Fall, questo Live from the Fallout Shelter, dal quale ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Work for Love. This song's called I Work for Love. giving back. Silver ain't gonna pay my thrill. Some stone cold morning you're gonna wake to a cheer. I'm work for love. Formazione con doppia chitarra, basso e batteria, quella dei Blue Dreamers che accompagnano in questa incisione John Nemeth, voce e armonica, fra l'altro anche gli altri quattro Blue Dreamers cantano e aiutano John Nemeth in questo lavoro. Work for Love si chiama il pezzo che ci siamo ascoltati da questo album From the Fallout Shelter, Live from the Fallout Shelter, da parte appunto di John Nemeth and the Blue Dreamers. Non starò naturalmente a dire che è un album di quelli da top di classifica, ma è un album onesto, buona musica, piacevole, ben suonata e con un sacco di pezzi, fra l'altro scritti da John Nemeth stesso, che sono tutti molto interessanti. I will be your man. A questo punto devo confessarvi che ero un po' a corto di appigli per proseguire la prima parte della trasmissione, che come sa chi segue Città Fujiko Live Club è sempre connessa con la novità che vi propongo in ogni trasmissione. Però a un certo punto mi sono accorto che su 13 brani di questo album 4 hanno la parola love nel titolo, la parola amore nel titolo, e quindi ho pensato di fare questa prima parte tutta incentrata su brani che parlano d'amore, e sapete meglio di me che ce ne sono non migliaia, non centinaia, milioni, forse anche miliardi di canzoni che parlano d'amore. Naturalmente non starò a disquisire sui testi, altrimenti perderemo un sacco di tempo. Dirò solamente che non è solo l'amore fra due persone, ma l'amore anche fraterno, l'amore per la natura, l'amore per gli animali. Tutti i tipi d'amore sono cantati nelle decine di migliaia e miliardi di canzoni, appunto, che parlano di love. Ad iniziare da questa, che si chiama semplicemente Love Song, da parte di una band che viene da Sacramento, in California, ed è attiva dal 1981 fino ad oggi, anche se con qualche interruzione. Tesla si chiama la band, come l'industria automobilistica, come il famoso inventore, e in realtà è una metal band, ma è stata una delle prime a fare un disco acustico sulla scia di MTV Unplugged. Il loro manager gli suggerì appunto di fare questo acustico, loro non erano molto convinti, ma poi come sempre i manager riescono a convincere più o meno chiunque, e quindi al Trocadero Theater di Philadelphia la sera del 2 luglio del 1990 registrarono questo album che si chiamava Five Man Acoustical Jam, che comprende questa lunga ma molto molto interessante canzone che si chiama appunto Love Song. Anche questa si chiama Love Song, ma al contrario di quella dei Tesla, che erano praticamente due parole, Love Song, in questo caso è solo una, Love Song, tutto attaccato, ma questo non interessa una cosa giusta, interessa solo che erano i grandi Cure a eseguire questo brano, dei loro grandi classici, al Festival dell'Isola di Wight nel 2011, esattamente il 10 di settembre. E ancora una volta ricordo il bellissimo concerto che i Cure hanno fatto qui a Bologna la notte di Halloween scorsa, che è stato veramente un concerto incredibile. Riconoscibilissimi come sempre, i Simple Minds vengono da Glasgow, e a Glasgow è stato registrato questo doppio dischetto più DVD che si chiama semplicemente Celebrate, esattamente alla SSE Hydro Arena di Glasgow. Era il 27 novembre del 2013 e, come sapete, molti di voi sapranno perlomeno, Jim Kerr, il cantante, vive oramai praticamente stabilmente in Sicilia. Sua moglie gestisce un hotel, ha un hotel a Taormina, e lui vive a Taormina, produce vino, non lui personalmente naturalmente, e pare che anche il chitarrista dei Simple Minds, Chuck Burchill, sia spesso in quel di Taormina insieme all'amico e collega di lavoro. Il brano, come ha annunciato lo stesso Jim Kerr, si chiama Love Song, in questo caso due parole staccate, love e song. Wake every morning, cold winds cover me. Rimaniamo in campo di celebrità e di assoluto livello. Infatti da Simple Minds passiamo a R.E.M., una super super grande band che non dimenticheremo mai, credo. Una grande band che purtroppo, per fortuna, amichevolmente ha deciso di sciogliersi qualche anno fa, e che fa sempre un gran piacere ascoltare, come fa piacere ascoltare questo brano che è un unplugged anche questo. R.E.M. hanno fatto due session unplugged per MTV e sono state riunite ambedue, una del 1991 e l'altra del 2001, quindi 10 anni di distanza. Sono state unite tutte e due in un album che si chiama The Complete MTV Session, e ce l'andiamo ad ascoltare adesso nella registrazione del 2001, questo brano fantastico, si chiama The One I Love, R.E.M. Hello. Good evening. This isn't unplugged, this is unabetted. Occupied my time. This This one goes out to the one I love. A fire. E questi erano naturalmente Joy Division, la loro Love Will Tear Us Apart Again, che arrivò al vertice della classifica britannica dopo il suicidio di Ian Curtis, che decretò la fine anche appunto dei Joy Division, che si trasformarono poi in New Order, ma questa è un'altra storia. Il tutto è tratto dalla ristampa di Steel, che era il loro album parzialmente live, era un doppio long play, il primo era in studio e l'altro era dal vivo, che è stato pubblicato nel 1981, ma poi in tempi più recenti, nel 2007, è stato ripubblicato. Il primo CD è lo stesso di Steel, uguale, mentre nel secondo abbiamo un concerto che è stato registrato alla Town Hall di Wycombe il 20 febbraio 1980, pochi mesi prima appunto che Ian Curtis si suicidasse. Andiamoci un attimo con un crooner d'eccezione. Lui è sempre stato un poser, un cantante fantastico, ma anche soprattutto un grande personaggio. Lui, Brian Ferry, e la sua band Roxy Music, grandissima band. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei classici della produzione più raffinata, diciamo così. My Only Love, Roxy Music. Eccolo qua un classico esempio di sindrome di Nevio. Quando si è indecisi fra due brani da trasmettere, se ne annuncia uno e si trasmette quell'altro. È una cosa che mi capita a volte, è capitata anche stavolta. Vi avevo proposto My Only Love di Roxy Music, ma dallo stesso album invece ero indeciso su Love is the Drug, e alla fine è capitata questa, che però è sempre un gran bel sentire. Roxy Music assolutamente non si discutono, e mi dispiace per questo grossolano errore. concludere questa forzatamente brevissima rassegna di brani con la parola love nel titolo, indipendentemente appunto dal testo, come ho già detto in precedenza, arriva Mr. Bob Marley, uno che ha cantato l'amore in migliaia di occasioni e in migliaia di modi. Questo è uno di quelli, arriva da un doppio album che si chiama Babylon by Bus ed è una registrazione che è stata effettuata al Pavillon di Parigi in tre giornate, praticamente dal 25 al 27 giugno del 1978. Bob Marley è un grandissimo personaggio e aveva diciamo qualche problema di figliolanza, nel senso che ne ha avuti riconosciuti 11, ma pare che ce ne siano tantissimi altri in giro per il mondo, ma questo non per fare gossip, ma per dirvi che di 11 figli riconosciuti di Bob Marley, tutti 11 sono musicisti o cantanti o musicisti o strumentisti, però tutti 11 fanno parte del mondo musicale che fa sempre bene, insomma, per una famiglia. Bob Marley, vi dicevo, si chiede, va a concludere questa prima parte di Città Fujiko Live Club e si chiede se questo è amore. This song's called Depriving of Love. Come on. Breakthrough. I think you are beautiful. You think I'm crazy. I can see you clearly now, though our world is hazy. Yeah. Depriving of love is a doggone shame. Tell me, baby, do you feel the same? Depriving of love is a doggone shame. That look in your eye, I've been there from time to time. I feel like I could die. You know we are similar, but it's of a feather. If we're gonna conquer all, we must come together. Yeah. Depriving of love is a doggone shame. Tell me, honey, do you feel the same? Don't say. È stato lo stesso John Nemeth, titolare della novità che vi propongo quest'oggi, John Nemeth and the Blues Dreamers, live from the Fallout Center, Shelter. E il pezzo si chiama, come ha detto lui stesso, appunto, Depriving Love, ed è contenuto in questo dischetto che, come dicevo prima, non è sicuramente una cosa che sconvolgerà il mondo musicale, ma è altrettanto un disco molto piacevole da ascoltare, molto ben registrato, e anche i brani sono sicuramente all'altezza della situazione. Il tutto da questo John Nemeth, che, come dicevo, arriva da Boise nel Idaho e ha avuto seri problemi di salute, ma sembrano superati, continua ad andare in giro a suonare per tutti gli Stati Uniti sui 150-200 concerti l'anno. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni, nel trascorrere degli anni. Ancora oggi tantissime cose, e ancora oggi il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. E oggi iniziamo dal 1968, qui c'è bisogno di un piccolo preambolo. Due personaggi: Mike Bloomfield, grandissimo chitarrista proveniente da Chicago, grande bluesman, suonò con la Paul Butterfly Blues Band, con gli Electric Flag, e poi si avviò per una carriera solista stroncata dalla sua morte precoce. E Ol Cooper invece è un tastierista multistrumentista, a dire il vero, ma principalmente suona le tastiere. Lui arriva perché per fortuna è ancora vivo, arriva da New York e ha formato i Blood, Sweat and Tears, e poi ha una carriera solista molto molto luminosa. Fra parentesi, è stato lui a suonare il piano in Like Rolling Stone, il pezzo che Bob Dylan con cui Bob Dylan passò, diciamo, dall'acustico all'elettrico. Proprio suonando per Bob Dylan, sia Mike Bloomfield che Al Cooper si conobbero e decisero di fare qualcosa insieme. Chiamarono anche un amico, tale Stephen Stills, che forse qualcuno di voi ricorderà con Crosby, Stills, Nash & Young, e fecero un album che si chiamava Super Session, un album praticamente completamente improvvisato che ebbe un grande successo, tanto che fu deciso di fare un concerto anche con i pezzi di questa Super Session. Il problema fu che quella sera Steve Stills non poteva essere della partita, e quindi l'album è accreditato solamente a Mike Bloomfield e Earl Cooper. Il tutto è stato registrato al Fillmore Auditorium di San Francisco, come dicevo, senza Steve Stills, il 27 settembre del 1968. Il brano che ho scelto per voi è una cover, visto che praticamente anche Super Session, appunto, era tutto improvvisato, i due non avevano tempo di comporre brani insieme o anche singolarmente, per cui praticamente tutto l'album è infarcito di cover. Questa è quella iniziale, è un brano di Paul Simon, quindi Simon and Garfunkel, si chiama The 59th Bridge Song, Street Bridge Song, comunemente detto anche Feeling Groovy. Ci andiamo ad ascoltare Mike Bloomfield e Al Cooper, era appunto il 27 settembre del 1968. Cercherò di dirlo un po' meglio perché prima mi sono impappinato. Questo brano si chiama The 59th Street Bridge Song, fra parentesi, Feeling Groovy, ed è un brano del repertorio di Paul Simon, Simon & Garfunkel, però questa occasione è stato interpretato da Mike Bloomfield e Al Kooper in quell'album che si chiama The Live Adventures of Mike Bloomfield and Al Kooper, registrato il 27 settembre del 1968. Andiamo a 2 anni dopo, ma la musica cambia radicalmente, anche se i Family, sono loro che andremo ad ascoltare, hanno sempre una componente blues nel loro repertorio. E questo doppio dischetto è una ristampa e ve l'ho proposta qualche mese fa come novità della trasmissione. È la ristampa di Anyway, album storico da questa band, appunto Family, una band di Leicester che è stata attiva dal 1966 al 1973, con alcune riunioni spot anche in questi giorni, fra parentesi. Loro sono sempre stati un po' ondivaghi, appunto come stile, sono passati dal blues al progressive a tanto altro, ma hanno sempre avuto un grande successo, soprattutto negli show dal vivo, perché erano veramente incredibili. Anyway, che è l'album che ci andremo ad ascoltare, il loro quarto album, è stato pubblicato nel novembre del 1970 come singolo, Long Plane, naturalmente in vinile, una facciata dal vivo e una in studio, mentre è stato ripubblicato nell'aprile di quest'anno e in due CD. Nel primo c'è tutto l'album originale, nel secondo invece abbiamo delle registrazioni diverse, molte delle quali effettuate al Playhouse Theatre di Londra per la BBC, l'ente di Stato radiotelevisivo britannico. Ci andiamo ad ascoltare in questa occasione, registrata appunto il 27 settembre del 1970, sono i Family, il brano si chiama Blow by Blow. Thank you. Purtroppo sfuma così questo ultimo brano dei Family, l'ultimo brano del concerto che tennero il 27 settembre del 1970 per la serie BBC Radio 1 John Peel Concert del nostro vate, John Peel appunto, e il tutto contenuto nella ristampa di Anyway, il loro quarto album. Il secondo dischetto è completamente dal vivo e questo è la conclusione. Blow by Blow si chiama il brano. Arriviamo al 1985, mentre prima con i Family eravamo nel 1970, sempre naturalmente 27 di settembre. Stavolta abbiamo il grande Bruce Springsteen insieme alla E Street Band in concerto a Los Angeles. Io sarei arrivato in quel di San Francisco qualche giorno dopo e vidi la recensione del concerto di Bruce Springsteen della E Street Band in TV, cosa che a quei tempi era impensabile qua in Italia. Comunque, questa è una serie della serie bootleg ufficiale e sono MP3 che a volte non sono letti dai lettori di Città Fujiko, ma stavolta pare che vada per il meglio. Il pezzo che ho scelto per voi, siamo nel 1985, lo ricordo, è una delle prime versioni full band di un brano che si chiama Atlantic Cities, 27 settembre 1985, Memorial Coliseum di Los Angeles, Bruce Springsteen and the E Street Band. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a hell of a fight. Wanna see what those racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of his teeth. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up, hey, and meet me tonight in Atlantic City. I got a job and I tried to put my money away, but I had debts that no honest man could pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought me and my baby two tickets on that Coast City bus. Everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, play, and meet me tonight in Atlantic City. The night's getting cold. Maybe everything dies. Maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Maybe someday. but it's hard to find. Cause down here there's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Cause I guess everything dies, maybe that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Come on and meet me tonight in Atlantic City. Just meet me tonight in Atlantic City. Siamo nel 1990, la carriera degli Spin Doctors sta decollando anche grazie a questo brano che ci siamo ascoltati, Little Miss Can't Be Wrong, e che come singolo ha avuto un grandissimo successo negli Stati Uniti, li ha portati ai primi posti delle classifiche, anche se loro in realtà non erano propriamente una band molto commerciale, facevano parte del filone, fanno tuttora parte perché sono ancora insieme dopo una piccola qualche anno diciamo di scioglimento, sono riformati, sono tuttora attivi. Dicevo che la loro carriera ha avuto un grande successo, anche se in realtà loro sono una jam band e che fa dei concerti molto lunghi con grandissime improvvisazioni, sono molto molto molto bravi, però ogni tanto ci mettono in mezzo qualche singolo di questo tipo che oltre a portargli fama gli porta anche denaro, che non è male, e tutto questo tratto da un singolo, un brano in studio che si chiama Two Princes e due brani dal vivo, fra cui appunto questo Little Miss Can't Be Wrong, che sono stati registrati i due brani live al Wetlands di New York City, un locale che era specializzato in jam bands, che purtroppo ha chiuso ormai da diverso tempo, ma che sicuramente ha portato tantissimi bei concerti nella città americana. Il tutto era il 27 settembre del 1990. Just go ahead now and if you like to tell me maybe, just go ahead now and if... 10 anni dopo arriviamo al 2000 esatto, insieme a Ben Harper e agli Innocent Criminals. Ben Harper viene da Pomona in California, i suoi nonni materni avevano un negozio di strumenti musicali, per cui lui è cresciuto con uno strumento musicale in mano, specificatamente la chitarra, e fra i clienti usuali dei nonni c'erano Leonard Cohen, David Lindley, Taj Mahal e tanti altri musicisti di questo livello. Lui ha fatto un doppio album, lui e lo ripeto anche gli Innocent Criminals hanno fatto un doppio album che si chiama Life from Mars, ma in realtà è stato registrato sulla Terra, anche se non si sa esattamente dove, però andando a spulciare sul web si legge che il brano numero 7, che è quello che ci andremo ad ascoltare, è stato registrato al Roseland Ballroom appunto di New York City il 27 settembre dell'anno di grazia 2000. Il pezzo si chiama Steal My Kisses, Ben Harper and the Innocent Criminals. To Nashville, Tennessee, but you wouldn't even come around to see me. And since you're headed up to Carolina, you know I'm gonna be right there behind you. And I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. From you, I'd love to feel that warm southern rain. Just to hear it fall, it's the sweetest sounding thing. And to see it fall on your simple country dress is like heaven to me, I must confess. And I always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Yeah. kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Always have to steal my kisses from you. Ben Harper and the Innocent Criminals, Steal My Kisses dall'album Life from Mars, brano registrato il 27 settembre del 2000 in quel del Roosevelt Ballroom di New York City. Molto velocemente perché anche stavolta siamo molto lunghi, l'ultimo brano sarà appannaggio dei King Crimson, che ritornano dopo un po' di tempo. Vi voglio solamente ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo da Radio Città Fujiko in quel di Bologna, tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, musica dal vivo di ogni genere. Vi lascio appunto in compagnia dei King Crimson. Out of Diary è un cofanetto di 5 CD che comprende registrazioni effettuate fra il 2014 e il 2018. Questo in particolare del 2014, anche qui siamo negli Stati Uniti, al Vic Theater di Chicago, e il brano che vi propongo concludere, che purtroppo credo dovrò tagliare, si chiama One More Red Nightmare, King Crimson.